silenzio c'è solo rumore. Le scavi e scendi senza risalire. Se oltre al mare non sai arrivare. Non sono solo i tuoi sguardi che uccidono. Se fanno pugni da ragione il cuore, corri forte dove vorresti urlare. Se manca poco ma non sai arrivare. Se cresce forte dentro te il dolore, aspetti il tempo giusto per amare. Se devi scegliere se dare o avere. Aspettati un sorriso prima o poi, da chi non te lo aspetteresti mai. Sui sogni non si può scherzare mai. Credici, forse ti ritroverai. E nel suo sguardo ti addormenterai. Perché il ricordo vive se lo vuoi. Col tuo amore ormai. E continuo. Se il mondo gira ma non te ne accorgi, e quando scegli senti già che sbagli. Se leggi solo dentro il tuo passato, se il tuo disegno non è più preciso, e chiedi sguardi, segni di un sorriso. Se senti il sangue freddo nelle vene. Aspettati un sorriso prima o poi, da chi non te lo aspetteresti mai. Sui sogni non si può scherzare mai. Credici, forse ti ritroverai.